GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Richiedenti asilo, ho cominciato a porre non il trasferimento dall'hangar della Comina alle strutture di accoglienza. Per alcuni migranti ha avviato anche un percorso lavorativo. Trieste, risveglio con i senza tetto nel dormitorio della Caritas in via Sant'Anastasio, intervista con il direttore dell'ente, padre Giovanni Lamanna. Tornano a crescere i prezzi al consumo a Trieste e Udine. A dicembre sono aumentati dello 0,4% in un mese, nel capoluogo dell'1,7% su base annua. Il goriziano Gianluca Madriz, nuovo presidente della Confcommercio regionale, succede a Giovanni Da Pozzo. Il vice sarà il pordenonese Fabio Pillon. A Trieste posate 13 nuove pietre d'inciampo, l'omaggio alle vittime della Shoah. Ruda può partire la ristrutturazione di Villa Antonini Belgrado, arrivati dal Ministero gli attesi finanziamenti per 3 milioni e 200 mila euro. Dedica al Festival Pordenonese, l'edizione del trentennale vedrà il ritorno di grandi autori come Bjorn Larsson, Yasmina Kadra e Gioconda Belli. Dal 16 marzo toccherà il protagonista di quest'anno, Arturo Pérez Reverte. Sono le 12:31 minuti, 30 secondi, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Dario Ronzoni. A Pordenone è cominciato il trasferimento dei richiedenti asilo dall'hangar della Comina all'ex struttura dei Comboniani, trasformata ora in centro per l'accoglienza delle persone provenienti dalla rotta balcanica. 25 ragazzi saranno trasferiti entro oggi e dentro il fine settimana tutti e 90 troveranno sistemazione tra la nuova struttura e l'accoglienza diffusa. Intanto la Croce Rossa sta portando avanti un progetto di inserimento nel mondo del lavoro per alcuni di questi giovani. Sentiamo. Spunta i nomi da una lista e augura loro buona fortuna. Lili, volontaria della Croce Rossa. Iniziano così i primi 25 trasferimenti di persone migranti dall'hangar della Comina, dove per alcuni mesi in via provvisoria hanno trovato accoglienza, a Villa Regia, ex struttura dei Comboniani, messa ora a disposizione della prefettura di Pordenone per l'accoglienza dei migranti. 25 ragazzi al giorno, fino ad un massimo di 71 persone. L'obiettivo è chiudere l'hangar e trovare per tutti una più dignitosa sistemazione tra questa struttura della chiesa e l'accoglienza diffusa. Accoglienza diffusa che già negli ultimi mesi aveva in parte assorbito l'esigenza d'accoglienza, fa sapere la prefettura, dando posto in primis a coloro che erano stati segnalati come più fragili dal punto di vista sanitario proprio dalla Croce Rossa. Si tratta di una sessantina di persone. Ora siamo con Giovanni Antonaglia, capo della Croce Rossa di Pordenone. Oggi è una giornata importante, finalmente questi spostamenti annunciati da tempo iniziano. Sì. Finalmente, il termine è giusto, abbiamo atteso moltissimo, abbiamo dovuto adeguare la struttura. Con oggi ci sono i primi 25 trasferimenti nella vecchia sede dei Comboniani a Villa Regia. Continueremo domani e contiamo entro questa settimana, al massimo l'inizio della prossima, di portare fuori tutti quanti dall'hangar, viste anche le temperature di questi ultimi giorni. L'obiettivo poi è trovare anche in qualche modo un'occupazione per questi ragazzi. Sì, certamente, e stiamo lavorando anche su questo in accordo con la prefettura e con Confindustria. Vorremmo strutturare un progetto di inserimento, di inclusione lavorativo, ascoltandolo e sentendo le necessità delle aziende del nostro territorio. Già 8 persone sono state impiegate, voi avete trovato i posti e questi ragazzi di fatto sono diventati anche autonomi. Certamente, hanno raggiunto la loro autonomia anche economica e quindi si sono inseriti nel tessuto sociale di Pordenone. Ne abbiamo già inseriti 8 e abbiamo già raccolto circa 60 curricula di queste persone che hanno anche delle qualifiche molto importanti. Pordenone, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste, secondo il Consorzio Italiano di Solidarietà, che lo segnala con un comunicato diffuso questa mattina, sono almeno 170 i richiedenti asilo che hanno fatto domanda di accoglienza e non l'hanno ancora ricevuta. Vi sono anche alcune famiglie con minori e per circa 60 persone la mancata accoglienza, scrive sempre il ICS, perdura da più di un mese nonostante siano esposte a gravi rischi anche di morte e la legge preveda l'obbligo tassativo per la prefettura di collocare in idonea accoglienza i richiedenti asilo al momento del loro arrivo, inadempienze che si protraggono da 16 mesi. La grave situazione, prosegue la nota del Consorzio Italiano di Solidarietà, non dipende in alcun modo da un presunto numero elevato di domande di asilo presentate a Trieste, che al contrario è bassissimo, attestandosi su circa 4 domande al giorno. Il rinvio, che talvolta viene fatto al numero elevato di ingressi, circa 19.000 nel 2023, è del tutto fuorviante dal momento che oltre l'85% degli ingressi è costituito da rifugiati che non chiedono asilo a Trieste, ma si allontanano rapidamente e che pertanto non entrano nel conteggio delle persone da accogliere. Di migranti e rotta balcanica si discute oggi in un vertice trilaterale nella cittadina istriana di Pinguente, in croato Buzet. Vi partecipano, accolti dal vice premier di Zagabria Božinović, il ministro dell'interno italiano Piantedosi e il ministro dell'interno sloveno Poklukar. Al centro dei colloqui gli attuali sviluppi nei Balcani occidentali, il rafforzamento della cooperazione e la sorveglianza temporanea alle frontiere interne di Schengen. A novembre a Trieste, in occasione di un precedente incontro, i tre paesi avevano concordato di rafforzare le pattuglie miste, i centri di coordinamento congiunti di polizia e gli incontri regolari tra i ministri. Sono centinaia i volontari che ogni giorno a Trieste si mettono in gioco per aiutare i bisognosi attraverso le attività solidali della Caritas, specie i migranti della rotta balcanica. Ma l'ente diocesano chiede ora che le istituzioni smettano di gestire il fenomeno delle migrazioni con un approccio puramente emergenziale. Questa mattina siamo andati a visitare il dormitorio di via Sant'Anastasio al risveglio dei senzatetto che vi vengono accolti. Aveva parlato pochi mesi fa di una stanchezza della chiesa triestina il vescovo di Trieste, Enrico Trevisi, nelle attività di accoglienza della Caritas diocesana. I numeri della rotta balcanica sono troppo grandi, le necessità organizzative troppo complesse. Da questo piccolo grande cuore pulsante di solidarietà che il dormitorio di via Sant'Anastasio, è netta l'impressione che sia ormai necessario passare, anche a livello istituzionale, a un approccio più organico e strutturale. Il direttore della Caritas triestina, padre Giovanni Lamanna. Non basta dare un posto dove dormire, da mangiare, ma bisogna aiutare queste persone a rimettersi in piedi, ad avere una vita dignitosa, e questo richiede competenze. Noi come realtà e come tante altre realtà nel settore sociale non dovremmo esistere se lo Stato funzionasse e desse risposte. Ora noi non possiamo supplire a tutto. Non siamo in grado di rispondere prontamente a situazioni di indigenza e su questo dobbiamo recuperare, però coinvolge Caritas, tante altre realtà, ma soprattutto le istituzioni. Tanti i migranti che rimangono fuori dal sistema d'accoglienza perché non c'è posto per tutti. Qui di notte trovano rifugio solo pochi fortunati. Il diacono Emanuele Natoli della Caritas triestina. Di base 24, ma sfoviamo ormai sempre perché le condizioni del tempo sono comunque proibitive e non possiamo lasciare nessuno dentro. Quindi, per esempio, ieri notte hanno dormito 31 persone. No, in questo dormitorio, e nuclei familiari con bambini. 135 i volontari giuliani che ruotano attorno solo a questo dormitorio. Di fronte al bisogno, all'emergenza, molte persone ci chiamano, hanno desiderio di mettersi a servizio nelle relazioni anche con chi ha bisogno, ed è questa, cioè, il dormitorio è prova vivente di questo, no? 135 persone che si sono messe a servizio non è da poco. No, non dire che Trieste è una città fredda, assolutamente. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Gianluca Madriz, presidente dal 2012 di Confcommercio Gorizia, è il nuovo presidente regionale di Confcommercio Friuli Venezia Giulia. La nomina, avvenuta nel rispetto della rotazione delle realtà provinciali, è stata decisa dall'assemblea delle Confcommercio territoriali. Nel ruolo di vice il presidente di Confcommercio Pordenone, Fabio Pillon. Madriz, classe 1968, commerciante di terza generazione a Gorizia nel settore pelletterie e valigeria, da sempre attivo nella associazione, prende il posto di Giovanni Da Pozzo, vicepresidente nazionale e provinciale di Udine di Confcommercio, che ricopriva la carica regionale dal 2018. Nel curriculum di Madriz anche la presidenza dal 2013 al 2016 della Camera di Commercio di Gorizia, per 8 anni dell'azienda speciale Porto Monfalcone e dal 2020 di Trieste Terminal Passeggeri. Apre il mandato con la volontà di continuare, citiamo, l'ottimo lavoro di Da Pozzo a tutela delle imprese diocese del terziario della regione, sostenendo con forza l'importanza dell'evento Gorizia, Nova Gorizia, capitale della cultura 2025, non solo per il territorio di immediato riferimento goriziano, ma per tutta la regione. Gli ultimi dati sui prezzi sono stati diffusi questa mattina dai comuni, in lieve ripresa dopo diversi mesi sia l'inflazione congiunturale sia quella tendenziale anno. Sentiamo. I prezzi continuano a scendere, ma non quelli del carrello della spesa. Sono sempre più cari alimentari e bevande in regione, nonostante il caro vita in assoluto scenda ben sotto il 2% su base annua. In regione a Trieste dell'1,7, a Udine addirittura dell'1,2. L'inflazione mese su mese torna tuttavia in territorio positivo, più 0,4 su entrambi i territori, dopo il calo di novembre. A preoccupare sono però i prodotti alimentari. A dicembre sono saliti del 7,8% rispetto allo stesso periodo del 2022 nel capoluogo, del 6,9% in Friuli, e anche rispetto al mese di novembre salgono in entrambi i casi dello 0,4%, quando tutti gli altri indici sono vicini allo zero o addirittura negativi. Nel dettaglio sono i prezzi di frutta e verdura a continuare a crescere vertiginosamente, rispettivamente più 26 e più 16% a Trieste, più 22 e più 15,4% a Udine rispetto a dicembre 2022. E come ci siamo accorti tutti, sale anche il prezzo dell'olio, ben oltre il 20%. Il dato complessivo dell'inflazione invece, dopo il boom di inizio 2023, torna su livelli più che accettabili. A trainarle in giù la riduzione dei costi per riscaldamento e energia, bollette a meno 18,9% in Venezia Giulia, meno 20% tondo in Friuli. Se prendiamo in considerazione il breve periodo, cioè la differenza tra novembre e dicembre, i prezzi rimangono standard più o meno su tutte le categorie, tranne che sui viaggi, cosa peraltro abbastanza ovvia, visto il periodo di riferimento, più 15% in tutta la regione. Sensibile invece il balzo del costo delle assicurazioni dei veicoli a Trieste, oltre il 5% in più rispetto al mese precedente. A Udine rimane uguale, ma è ben del 18% in più la spesa in media per assicurarsi nel corso del 2023, a parità di classe. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste la polizia locale ha sequestrato in un negozio del Borgo Teresiano una sessantina di confezioni di profumo non conformi alla normativa dell'Unione Europea. Nello specifico è stato riscontrato che diversi profumi contenevano una fragranza pericolosa per la salute, il butilfenilmetilpropionale o più comunemente l'ilial, sostanza genotossica. La UE ha vietato già nel 2022 la commercializzazione di prodotti cosmetici contenenti questa sostanza. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato segnalato l'autorità giudiziaria. Il Lilial è presente nelle vecchie formulazioni di decine di prodotti di profumeria, anche di note marche, tra i quali shampoo, bagnoschiuma, creme, dopobarba, salviettine, eccetera. Non tutti i lotti precedenti al divieto sono stati ritirati, soprattutto al di fuori della grande distribuzione. 13 nuove pietre d'inciampo dedicate ad altrettanti donne e uomini che furono deportati e soppressi nei campi di sterminio sono state posate a Trieste, mentre la città si prepara alla giornata della memoria per le vittime della Shoah. La posa di 13 nuove pietre d'inciampo a Trieste per ricordare altrettante vittime della persecuzione nazifascista si incrocia quest'anno con l'allarme della comunità ebraica per il crescente fenomeno di antisemitismo. Il rischio è, secondo il rabbino, che quel mai più tante volte ripetuto si riveli vano. Ad aprire il percorso è stata in piazza del Ponte Rosso la pietra d'inciampo dedicata a Egon Brunner, la cui figura è stata ricordata dalle pronipoti, accanto agli studenti del liceo Petrarca che hanno lavorato, ha spiegato la dirigente Cesira Militello, per conoscere e attraversare il dolore che sta dietro la storia. Dichiara Alessandro Salonicchio, presidente della comunità ebraica di Trieste. Noi come comunità siamo molto preoccupati rispetto all'acuirsi dell'antisemitismo in una situazione che sta sfuggendo di mano. Non apprezziamo le ambiguità di taluni. Qui siamo a ricordare un fenomeno tragico della storia dell'umanità, la Shoah, e contiamo che questo piccolo passo che cerchiamo di fare proprio rammentando quello che sta succedendo oggi in Israele possa essere un viatico per migliorare la situazione. Purtroppo sono un po' pessimista. E il rabbino capo Eliyahu Alexander Meloni ribatte a chi in questi giorni accusa il popolo ebraico di genocidio. È un'accusa infondata e che non ha senso, anzi è un'accusa che è profondamente antisemita. Se si accusa il popolo ebraico di genocidio, ciò significa indirettamente, se si porta il ragionamento fino in fondo, che tutto sommato quello che è stato fatto agli ebrei nell'ultima guerra era giustificato. E questo è preoccupante. Il mai più che veniva detto e che veniva pronunciato diventa solo un'utopia, si ripeterà tutto. A paventare il rischio di un ritorno dell'antisemitismo in Europa è stato anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Noi abbiamo voluto, ha detto, essere presenti proprio per testimoniare la vicinanza dell'istituzione, prendere una posizione netta e anche ricordare il memorandum che abbiamo siglato con le municipalità israeliane proprio per valorizzare tutte quelle iniziative volte a contrastare l'antisemitismo. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. A causa di alcuni lavori di manutenzione, da oggi fino a venerdì 19, il castello di Gorizia sarà aperto solo al piano terra con ingresso gratuito. Chiuso al pubblico il primo piano. Saranno perciò accessibili la corte, le cucine, la sala armi e la cella, con il percorso multimediale limitato alle apparizioni del giullare e della dama bianca. Gli orari di apertura resteranno quelli consueti, dalle 10 alle 15, martedì, mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 18, venerdì, sabato e domenica. Villa Antonini Belgrado, storica dimora di Saciretto di Ruda, che ospitò importanti artisti, potrà essere restaurata. Dopo la messa in sicurezza, dal governo arriva infatti l'importante finanziamento che era stato annunciato più di 2 anni fa. Si tratta di 3 milioni e 200 mila euro. La villa è un bene di straordinaria testimonianza cinquecentesca di scuola palladiana e ha visto la presenza di artisti come Federico Righi e Rosetta Ossi-Zinner. La soprintendenza regionale, il comune di Ruda hanno stabilito un percorso di interventi che dopo i primi necessari consolidamenti sta riguardando la fase progettuale nel suo intero complesso. Il sindaco Franco Leonarduzzi parla di una matassa difficilissima sbrogliata, ricordando la visita dell'allora ministro Franceschini, auspicando un uguale interessamento da parte dell'attuale ministro Gennaro San Giuliano. E diamo uno sguardo al tempo con cielo sereno sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 8 gradi, a Gorizia 7 gradi e mezzo, Udine 6 gradi e mezzo, Pordenone 6. A Tolmezzo e a Forni di Sopra 1 grado, sul Piancavallo meno mezzo grado, a Travisio 1 grado sotto zero e a Sappada meno 6 gradi. In montagna sullo Zoncolan meno 4 gradi e 5 decimi, sull'Ussare meno 6 gradi. Sulla costa a Grado 7 gradi e mezzo e a Lignano 6 gradi e mezzo. Secondo l'ARPA, nel pomeriggio e in serata avremo cielo sereno o poco nuvoloso, domani cielo coperto con piogge, in particolare dal pomeriggio, e sulle zone di costa e orientali meno in Carnia. Si è da poco conclusa a Las Vegas la CES, la più importante fiera tecnologica e dell'elettronica di consumo al mondo, fiera che dal 1967, quando è nata, anticipa tutte le tendenze e i prodotti del futuro. Ne abbiamo parlato questa mattina a Buongiorno Regione con Fabrizio Rovatti, dirigente tecnologo dell'area Science Park di Trieste. E l'intelligenza artificiale, la stella polare che ha tracciato il panorama tecnologico del CES di Las Vegas, la fiera del tech più importante al mondo. Intelligenza artificiale che sempre più diventerà protagonista delle nostre vite, dai risvolti medici alle TV, dai computer all'automobile fino alla domotica. Determinante il ruolo di Area Science Park, che ha selezionato le 50 start-up italiane più innovative. 3 di queste si trovano all'interno del campus di Padriciano. Della nostra regione avevamo 3 start-up, AI4IV, AINDO e M2Test. Forte presenza naturalmente dell'intelligenza artificiale, quindi mentre per la prima startup abbiamo una intelligenza artificiale applicata alla visione artificiale, nel secondo caso di AINDO abbiamo i dati sintetici che sempre si inseriscono molto bene nel tema della privacy e della gestione dei dati per l'intelligenza artificiale, e M2Test che ha presentato il nuovo prototipo del prodotto nuovo sull'osteoporosi che verrà presentato e verrà immesso sul mercato tra poco, anche grazie alla loro campagna di crowdfunding. Quali le novità più eclatanti dal CES di Las Vegas? L'intelligenza artificiale applicata sempre di più nelle nostre vite quotidiane, per cui abbiamo visto moltissime applicazioni in tutti i campi, dal campo delle life science al campo dell'industria, fino all'ingresso dell'intelligenza artificiale all'interno delle nostre case e delle nostre vite. Penso per esempio alla sempre maggior presenza dei robot guidati dall'intelligenza artificiale a servizio delle nostre vite di tutti i giorni. Sarà una realtà non prossima propriamente? Non prossima, diciamo che questo è sicuramente un trend. Al CES vediamo molti prodotti che entreranno sul mercato fra un anno, due anni al massimo, ma cosa ancora più importante per noi è vedere i trend di sviluppo di queste tecnologie. Come area siamo specializzati sempre di più nella deep tech innovation e questo è in qualche modo una visione di quello che potrà avvenire nel futuro. Elisabetta Zaccolo, TGR Friuli Venezia Giulia. L'artista slovena Lucka Zenta con la sua opera Can You Feel Us ha vinto a Trieste il premio in memoria di Barbara Fornasir promosso dalla Biennale Internazionale Donna, conferitole in occasione del finissage in sala Luttazzi. Zenta ha 27 anni e vive a Lubiana. L'opera premiata è un'installazione che invita gli spettatori a percepire l'esistenza come un intero, rappresentando l'interconnessione e l'interdipendenza delle diverse forme di vita. La composizione include materiali come legno, pietre, un fungo, capelli umani, ossa, la carcassa di una lucertola, terra e piume. Dedica, il Festival Pordenonese che ogni anno celebra un autore e le sue opere, sta per aprire l'edizione del trentennale e tra due settimane cominceranno gli appuntamenti che vedranno il ritorno di alcuni ospiti degli ultimi anni. Per festeggiare i suoi primi 30 anni, il Festival Dedica di Pordenone, organizzato dall'Associazione Culturale Tesis e dedicato quest'anno allo scrittore spagnolo Arturo Pérez Reverte, ha preparato un programma di iniziative che animeranno tutto il 2024. La prima, intitolata La vita e l'arte dell'incontro, prenderà il via a fine gennaio con il ritorno di importanti autori internazionali che sono stati protagonisti delle più intense edizioni della rassegna. Dal 26 gennaio al 6 marzo, Carmen Yanez, Paolo Rumiz, Gioconda Belli, Bjorn Larsson e Yasmin Kadra saranno al centro dell'itinerario che li porterà a Pordenone, a Zano Decimo, Sacile, San Vito al Tagliamento e nelle università di Udine e Lubiana. L'originalità della rassegna sta nel voler conoscere in profondità un autore, protagonista assoluto e ogni anno diverso, catturare nell'insieme della sua opera e pensiero i preziosi dettagli che lo compongono. Condividere e discutere con l'autore stesso ciascun appuntamento di ogni edizione. La vita è l'arte dell'incontro darà quest'anno la possibilità di incontrare o reincontrare alcuni autori con i quali il festival ha costruito e mantenuto anche rapporti di amicizia per nuovi confronti e collaborazioni. Si diceva del dedicato di quest'anno, Arturo Pérez Reverte, scrittore pluripremiato e figura di spicco della letteratura spagnola contemporanea, che sarà il protagonista dal 16 al 23 marzo. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Per il progetto Uguali e Diversi dell'Associazione Culturale Tesis è a Sacile oggi la sociolinguista, divulgatrice e traduttrice Vera Gheno. Al Teatro Zancanaro porta il suo monologo Grammamante, in cui racchiude anni di ricerca e di impegno divulgativo sul potere e l'importanza della lingua. L'abbiamo raggiunta per un'intervista e l'abbiamo chiesto perché le parole sono importanti. Le parole sono importanti perché sono ganci verso mondi di idee, di pregiudizi, di giudizi, di conoscenze, di misconoscenze e così via. In pratica servono per far capire agli altri e alle altre persone ciò che noi pensiamo, ciò che noi vorremmo essere, ciò che noi aspiriamo a essere. Ovviamente non sono importanti da sole, cioè le parole non bastano. Vanno prese per quello che sono, cioè un veicolo che può rinforzare o dei circoli virtuosi oppure purtroppo anche dei circoli viziosi, e in questo senso usarle con un pochino più di attenzione può servire per aiutare anche le altre persone a vedere la realtà come la vediamo noi e quindi aiutarle a assumere magari punti di vista diversi da quelli a cui sono abituate. Quindi cambiare le parole cambia anche un po' il mondo. Non in maniera diretta, nessuno credo ha la convinzione che le parole abbiano un valore magico come nel mondo di Harry Potter, non ci sono le formule magiche, però in maniera indiretta appunto possono aiutarci a vedere la realtà da punti di vista magari inconsueti, che è una cosa di cui secondo me abbiamo molto bisogno. Lei è una sostenitrice del linguaggio inclusivo, per ora la causa di inserire lo schwa nel linguaggio italiano, che cos'è? Ma in realtà io non sono dell'avviso che lo schwa debba per forza essere inserito nell'italiano. Ah. Lo schwa è un simbolo dell'alfabeto fonetico internazionale che ha la forma di una E ruotata in avanti di 180 gradi e indica un suono medio, un po' come quello che si fa quando non si sa rispondere a una domanda, un po' così. Viene usato da alcune comunità LGBTQIA+, transfemministe, eccetera, per includere nel discorso anche le persone che non si riconoscono all'interno del binarismo di genere, cioè non si identificano né come maschi né come femmine, e quindi buonasera a tutta una cosa del genere. Perché dico che non per forza deve entrare nel vocabolario per avere un significato o un'importanza? Perché per me il suo uso è simbolico, di rottura, serve per attirare l'attenzione su qualcosa che è ancora molto poco noto in Italia, cioè l'esistenza di una certa quota di persone che appunto non rientrano nei due generi canonici, e queste persone all'interno dell'italiano così com'è non hanno un piazzamento, un posizionamento. La pagina degli spettacoli cinema, il visionario di Udine, viene presentato il film documentario Gorgona del regista Antonio Tibaldi, che racconta la vita nell'isola carcere a 19 miglia marittime da Livorno, l'ultima colonia penale agricola d'Europa. Qui circa 90 detenuti intraprendono un percorso lavorativo basato sul lavoro, appunto curando il bestiame e stando nei campi. Alla proiezione sarà presente il regista alle 19.30 al visionario. Domani il documentario sarà a Cinema Zero di Pordenone alle 20.45. Stefano Massini, Sabina Guzzanti, ma anche Massimo Lopez e Tullio Solenghi sono alcuni degli artisti in scena stasera nei teatri della regione. Massini va in scena al Rossetti di Trieste con il suo L'interpretazione dei sogni, tratto dagli scritti di Sigmund Freud, alle 20.30 in sala Assicurazioni Generali. Al Teatro Verri di Gorizia in programma alle 20.45, dove eravamo rimasti con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, uno spettacolo di gag, imitazioni, balli e canzoni, mentre al nuovo teatro immersivo di Tavagnacco arriva Sabina Guzzanti insieme a Giorgio Tirabassi con lo spettacolo Le Verdi Colline dell'Africa, anche questo alle 20.45. Udine invece presenta alle 19.30 il primo appuntamento di Soggetto Donna, progetto dedicato a tre grandi figure femminili legate alla regione. Si comincia con Una infinita lotta con Alvia Reale, che interpreta Carolina Cohen Luzzatto, una delle prime giornaliste donne dell'Ottocento, direttrice per anni ma senza diritto di firma del Giornale di Gorizia. In chiusura un comunicato sindacale. Il 19 dicembre scorso la Camera dei Deputati ha approvato una modifica del codice di procedura penale per vietare la pubblicazione delle ordinanze cautelari integrali o per estratto fino al termine dell'udienza preliminare. Per la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, le associazioni regionali di stampa e comitati di redazione, il provvedimento in discussione rappresenta l'ennesimo bavaglio all'informazione, oltre che uno squilibrio del nostro sistema giuridico e costituzionale. Se anche il Senato dovesse approvare il testo, ci troveremmo di fronte a un provvedimento che va al di là delle disposizioni europee, viola l'articolo 21 della Costituzione e compromette l'autonomia dei giornalisti. Da qui la richiesta al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di non firmare una legge con una norma di questo tipo. Diciamo no alla censura di Stato e siamo pronti a mobilitarci con tutta la categoria fino allo sciopero generale per rivendicare l'identità e la dignità della nostra professione, ma soprattutto per il diritto di cittadine e cittadini di avere una giusta e corretta informazione. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Dario Ronzoni e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Caterina Cabrelli e Carlo Morello, ha collaborato in redazione Samantha Gon. Le 12:58, prossima edizione alle 15, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.